Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Ci siamo già occupati un paio di settimane fa della depurazione delle acque reflue e del problema dei fanghi. Le acque reflue urbane, come gli scarichi fognari, oltre alle acque provenienti da vari processi industriali, a condizione che contengano inquinanti di tipo organico, vengono depurate nella stragrande maggioranza dei casi grazie a dei batteri. L'operazione si svolge normalmente in grandi vasche in cui i batteri in questione si nutrono delle sostanze inquinanti moltiplicandosi a dismisura. L'acqua in questo modo viene purificata, ma in compenso i batteri vanno a formare enormi quantitativi di fanghi che vanno poi smaltiti. Una procedura costosa ed energivora, oltre che lesiva per l'ambiente. Al CNR IRSA è in corso di sviluppo già da alcuni anni un innovativo processo di depurazione che riduce drasticamente proprio la produzione di fanghi, oltre a generare varie altre economie di processo. La tecnologia si chiama PerBioff, ne parliamo con Claudio Di Iaconi, ricercatore e leader appunto di questo progetto. Buonasera Di Iaconi. Sì, salve. Io le faccio i complimenti tanto per cominciare perché, se non sbaglio, è di pochi giorni fa la notizia che la sua tecnologia è stata selezionata dall'Europa come una delle migliori tra quelle che proprio l'Europa ha finanziato. Sì, è vero, è vero. Il progetto PerBioff, dove questa tecnologia è stata applicata su scala dimostrativa, è stato incluso questo progetto tra i migliori progetti del 2009. Bene, complimenti allora. E adesso però ci deve spiegare che cosa si tratta e in cosa differisce, ecco, dal metodo tradizionale. Sì, praticamente è una tecnologia che utilizza i batteri in maniera intensificata, come si dice, cioè diciamo che c'è un aumento di dismisura della concentrazione di questi microrganismi, con il risultato che questi microrganismi, piuttosto che pensare a duplicarsi, non dobbiamo dimenticare che il sogno di un microrganismo è quello di fare un altro microrganismo. In queste condizioni invece il microrganismo pensa a sopravvivere e non a, diciamo, a riprodursi, insomma, come insomma avviene normalmente nei sistemi convenzionali. Il risultato è una migliore efficienza rispetto alle tecnologie tradizionali e una bassissima produzione di residui da smaltire. Si può arrivare anche a ridurre la produzione dei fanghi, quindi dei residui, fino a 10 volte in confronto alle tecnologie convenzionali. Convenzionali. Ecco, come avete fatto a creare un ambiente, per così dire, stressante per questi batteri? Perché appunto in un normale depuratore è una Disneyland per i batteri. Lì voi li avete messi praticamente ai lavori forzati. Allora, la tecnologia utilizza un mezzo di riempimento. Grazie a questo mezzo di riempimento si spinge la biomassa, i microrganismi a granulare, cioè la biomassa si presenta sotto forma di granuli caratterizzati da un'elevata densità fino a 4-5 volte superiore a quella dei sistemi a fanghi attivi e anche dei biofilm. È chiaro che ne risulta praticamente un aumento della concentrazione della biomassa. Devono litigare questi batteri per poter campare. Ecco, abbiamo detto che uno degli effetti principali è la riduzione fino a 10 volte dei fanghi prodotti. Ci sono altri tipi di economie che derivano da questo tipo di processo? Sì, sicuramente. Solitamente una linea trattamenti fanghi richiede tra il 20 e il 30% dell'energia totale di un impianto. Quindi, riducendo la quantità di fanghi prodotti, riduciamo l'energia necessaria per la purificazione completa dell'acqua. Complessivamente di un 15%, quindi circa, no? 15%, sì. Mentre, se non sbaglio, proprio questo documento dell'Unione Europea riconosce che la riduzione complessiva nell'uso delle risorse è addirittura di 3 volte. Sì, diciamo che questo come risorse non intese soltanto in senso di energia primaria, ma anche altre componenti, diciamo, delle risorse. D'accordo. Quali sono i campi di applicazione? Praticamente tutti gli scarichi che contengono sostanze biodegradabili e non solo, anche scarichi che contengono insieme alle sostanze biodegradabili anche le sostanze cosiddette refrattarie. Infatti Questa tecnologia si sposa molto bene con l'integrazione di processi chimici utilizzati però al solo scopo di rendere biodegradabili i composti. Cioè quando nei reflui c'è una parte non biodegradabile, viene resa biodegradabile, a questo punto i batteri se la pappano. Sì, sì. Ecco, quindi industria tessile, industria del cibo, conceria, insomma sono diversi tipi di scarichi che possono essere elaborati. Tra l'altro una cosa che non abbiamo detto è che cambia completamente il design dell'impianto, non abbiamo più le vecchie vasche, ma abbiamo un solo reattore, vero? Certo, certo, chiaramente questa è una tecnologia nella quale la biomassa, quindi i principali attori, non sono presenti in forma sospesa, ma sono ancorati, confinati in un mezzo di supporto. Pertanto, per esempio, non è necessaria più l'unità di sedimentazione finale che solitamente occupa fino al 40-50% della dimensione dell'intera unità biologica. Quindi questa tecnologia è costituita da un solo bacino che si sviluppa più in altezza che in larghezza, quindi con un risparmio di superficie e con tutti i processi che solitamente sono legati all'aumento della superficie, come rumori, odori, aerosol. Quindi questa tecnologia produce un minore impatto ambientale. Grazie Claudio Diaconi. Buonasera Melis. Bene, Mr. Kilowatt torna domani per parlare di lampade a induzione, sorgenti di luce dalle proprietà eccezionali eppure molto trascurate. Attendiamo i vostri commenti su Mr. Kilowatt @radio24.it. Buona serata.